Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno da Nicoletta, eccoci qua, vi sentite meglio? Se le ricerche hanno ragione, qualcosa di buono e di piacevole deve essere capitato nel nostro cervello. Ha funzionato? Allora ancora un po'. Secondo una ricerca dell'Università del Mediterraneo di Marsiglia, la musica ha un'influenza positiva sui livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Qual è la musica che vi fa stare bene? 800 24 00 24. Parleremo oggi del potere della musica insieme ai nostri ospiti. Saluto subito la dottoressa Luisa Lopez, responsabile medico dell'ambulatorio di neuropsichiatria del villaggio Eugenio Litta di Grottaferrata e consulente scientifica della Fondazione Mariani per il progetto Neuroscienze e Musica. Con lei andremo a cercare e a scoprire gli effetti che la musica produce nel nostro cervello. Buongiorno dottoressa e benvenuta. Buongiorno a lei, benvenuti a tutti. In linea con noi abbiamo il dottor Francesco Aquila, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Ha insegnato anche psicologia della musica, ha appena pubblicato un libro dal titolo Psicoterapia cognitiva della depressione, Franco Angeli editore. E il dottor Aquila, che tra l'altro è anche un esperto del nostro Daily Lab, ci racconterà il potere della musica nell'attivare, amplificare, richiamare, decodificare le nostre emozioni. Dottor Aquila, intanto buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie, buongiorno a lei Nicoletta, alla professoressa Lopez e a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo altro da aggiungere? Su che cosa? Sul potere delle emozioni della musica, come no? Potremmo scrivere libri interi. Potremmo scrivere libri interi, ma tutti noi abbiamo una specie di colonna sonora della nostra vita che viene scandita da episodi musicali. Alcune ricerche dicono che il primo ricordo che ognuno di noi mantiene nell'età adulta è un ricordo che ha a che fare con una melodia, e quante volte abbiamo avuto bisogno di una musica che ci supportasse, che ci energizzasse, che ci facesse da antidepressivo o da rilassante. Quindi sarà sicuramente un tema molto interessante che potremo declinare in tutte le sue forme. Allora, quindi, ai nostri ascoltatori a casa, la musica vi fa stare bene? Immagino di sì. Quando l'ascoltate, che cosa cercate? Che cosa trovate? Avete un genere musicale preferito o siete onnivori? Dottor Aquila, in base alla scelta del genere musicale, noi potremmo anche tratteggiare qualche cosa di più, un profilo della persona che lo ascolta? Per molti aspetti sì. Perché intanto possiamo differenziare tra le persone che producono musica e che sono i musicisti e quelli che in qualche modo compongono e suonano, e le persone che fruiscono musica. È la prima grossa differenziazione, e molto spesso gli uni, cioè i musicisti, quando parlano con gli altri considerano come se anche gli altri fossero dei produttori di musica, e talvolta questo lascia un po' perplessi gli interlocutori. Alcuni la producono, secernono musica, il loro cervello secerne musica e gli dà la forza per andare avanti ogni giorno. Altri invece utilizzano il lavoro fatto da altre persone per nutrirsi di musica, e questa è la prima differenziazione. La seconda è tra quelli che utilizzano la musica prevalentemente per energizzarsi e quelli che utilizzano la musica prevalentemente per rilassarsi, e sono validi entrambi i passi. Questi potrebbero essere i primi quattro punti cardinali della nostra riflessione. 800 24 00 24 se volete intervenire e raccontare la vostra relazione con la musica. Ma io al potere delle note aggiungo un nome di un grande pianista che è in linea con noi, Stefano Bollani. Stefano, ciao! Buongiorno, ma che bello. Come va? Noi bene, grazie. Siamo contenti di averti con noi, ti ruberemo per un'ora intera. Senti Stefano, però noi non abbiamo il pianoforte purtroppo, ma solo le nostre voci, e noi le useremo per splendide improvvisazioni sul tema benessere. Dacci là. Intanto ti presento gli ospiti che con te saranno in trasmissione, così ti faccio sentire le loro voci. La dottoressa Lopez. Dottoressa Lopez, saluti. Buongiorno. Stefano Bollani, che così sente la sua voce. Con grandissimo piacere lo saluto, lo ascolto sempre. Buongiorno. Molto molto volentieri. Buongiorno, buongiorno. E abbiamo buongiorno. Anche il dottor Aquilar, che è uno psicologo e psicoterapeuta. Lui è stato docente anche di psicologia della musica, quindi con lui esploreremo il côté emotivo della musica. Dottor buongiorno, buongiorno maestro, e complimenti perché lei aggiorna la storia della musica adeguandola all'uomo contemporaneo, quindi davvero complimenti. Stefano, sei quanti? Io nel preparare questa trasmissione insieme a Laura Vanossi abbiamo letto di te di tutto, di più, e alla fine ho detto: senti, io improvviso, no, improvviso, ecco. Non si improvvisa mai, ma insomma, perché c'erano talmente tanti articoli, tutti complimenti, e il tuo incontro con il jazz, io vorrei parlare proprio di improvvisazione con te. Sì. Volentieri, anche perché ti correggo subito, faccio sì, professorino. Bravo. Improvvisare non è un termine negativo, in realtà è quello che facciamo tutti i giorni nella vita, quello che sto facendo anch'io ora, costruendo queste frasi in risposta alla tua sollecitazione, per cui in realtà l'improvvisazione, che è la parte centrale e fondante forse di tutto il jazz, ma non solo, lo era anche della musica classica tanti anni fa, prima che lo spartito diventasse il verbo, lo è in buona parte del rock e lo è nella musica contemporanea. L'improvvisazione è l'amore per il presente, l'amore per l'idea che l'opera d'arte nasca in quel momento preciso e che non sia quindi ripetibile, che non sia preparata prima e che quindi in fondo nasca anche da un rapporto immediato e diretto col pubblico che sta ascoltando e con i musicisti che sono con te sul palco e con l'ambiente, con l'aria che tira in quel momento, per cui in realtà è una cosa molto bella ed è una pratica con la quale il mondo è andato avanti, temo. E io penso, dottor Aquilar, che come dice appunto Stefano, è una capacità, una dote, un tratto che ci aiuta anche nella vita, l'improvvisazione. La vita e l'improvvisazione è alla base davvero di tutto quello che facciamo. Anche il nostro lavoro di psicoterapeuti è improvvisazione insieme ai nostri pazienti, come se fosse un duo. Il paziente fa una parte, detta il tema e dà anche un po' il ritmo generale della nostra seduta e noi, se siamo capaci, interveniamo adeguatamente all'interno di quel ritmo per poi trasformarlo a seconda delle esigenze emotive sulle quali dobbiamo lavorare. Quindi questa, come dire, sottolineatura dell'improvvisazione mi trova totalmente d'accordo, tra l'altro è stata anche teorizzata come nel jazz da molti testi di psicoterapia. Intanto arrivano molti messaggi, ve ne leggo alcuni. Senza musica sarei morto, ci scrive un ascoltatore. Amo tutti i generi, ma quello che mi dà più energie è suonare in live. Senza il palco ormai soffrirei di crisi di astinenza. Andrea, contrabbassista. Questo sicuramente, questo desiderio di salire sul palco e di suonare, Stefano, puoi condividerlo naturalmente con il nostro amico Andrea. No, io non l'ho mai avuto, mai provato una sensazione del genere. No, io proprio non condivido non tutto, di più, nel senso che io ho iniziato a suonare principalmente perché volevo stare su un palco. Il pianoforte è quasi una scelta casuale, volevo stare su un palco a tutti i costi e stavo su un palco, imitavo le professoresse, imitavo gli amici, raccontavo barzellette, qualsiasi cosa pur di essere al centro dell'attenzione, quindi capisco il nostro amico alla grande. Senti, e tu hai iniziato comunque a suonare giovanissimo, piccolissimo. Ho iniziato all'età di 6 anni, la scelta dello strumento è stata appunto, come dicevo, un po' casuale, forse perché era uno strumento come la chitarra e la fisarmonica che avrebbe consentito un giorno di accompagnare la mia voce, perché io in definitiva volevo essere nella front line, quindi essere davanti, cantare, essere protagonista. Dottoressa Lopez, i nostri bambini hanno bisogno di musica per crescere? senz'altro, adesso le ricerche ce lo dicono sempre di più, ci dicono che noi viviamo in un ambiente culturale fatto di tutto quello che ci circonda, compresi i suoni musicali, e in base a questi suoni che avremo sentito, che poi quando sentiremo poi delle musiche saremo affascinati, trasportati e stupiti da quelli che sono i suoni che gli altri ci raccontano, e quindi è molto importante anche nelle politiche di istruzione e nelle politiche culturali che questi aspetti vengano nutriti, perché altrimenti li perdiamo. Daniela, dalla provincia di Cuneo, 800240024, benvenuta. Ah, buongiorno. Buongiorno, io vorrei raccontare una mia esperienza che ho vissuto con la musica, che è stata estremamente profonda. Durante il travaglio della mia prima figlia ho avuto un travaglio molto lungo e doloroso, e mi ricordo che quando ero ancora a casa prima di andare all'ospedale ho messo nello stereo un CD di litanie medievali, sì, e mi sono inginocchiata come in posizione di preghiera, e unitamente alla rotazione del bacino questa musica melodica e ripetitiva mi ha aiutato a raggiungere una sorta di stato di trance. Sta di fatto che in una situazione di profondo dolore io a un certo punto mi sono come risvegliata e credevo fossero passati 5 minuti, in realtà erano passate 2 ore, per cui è stata un'esperienza molto profonda e bella. Grazie Daniela, è un'esperienza, dottor Aquilar. Assolutamente molto, d'accordo molto con Daniela. Vitale, direi, molto forte. Assolutamente d'accordo con Daniela. Lei ha costruito, grazie alla musica e appunto alla ripetitività della musica, un contesto di ipnosi autoindotta che è servito sia per avere una distorsione temporale, quindi per abbreviare il tempo delle sofferenze, sia per ridurre la quantità delle sofferenze stesse. Ma questo lavoro di autoipnosi musicale e di ipnosi musicale esiste già dai tempi dell'antica Grecia. Ci sono delle prove che in alcuni templi venivano effettuate queste cose con l'aiuto della musica, proprio per favorire uno stato ipnotico o estatico o, come in questo caso, antidolorifico. Angelo da Brescia, buongiorno, benvenuto. Grazie, buona giornata. Io diciamo che la musica l'ho usata per tanti anni, da Vangelis a Chitaro, però l'ultima che mi ha dato quella forza in più è stato Uno su Mille ce le fa. Era stato un attimo con me che non riuscivo ad uscire da una crisi profonda di lavoro, e quella parte lì chissà perché mi ha dato lo spinto di proseguire poi in seguito a una spiritualità interiore, dove vado a dei seminari, alla domenica al santuario di Caravaggio, dove ci sono queste preghiere cantate, e non so, sarà un effetto placebo, sarà, però io ultimamente vedo che le cose stanno cambiando positivamente, e spero che se è così tengo stretto a questa positività. Certo. Quando arriverà la negatività cercherò di cambiare, di girare la manopola della poi, radio, certo, e girare. Angelo, improvviserà in quel caso. Stefano, che dici? Sì, decisamente, ma direi che è assolutamente necessario. Stavo ascoltando con interesse tutto il discorso precedente sulle litanie medievali, ma anche quello che ha detto l'ultimo, il dottor Aquilar, ascoltatore che ha telefonato. Sì, il dottor Aquilar è anche l'ultimo ascoltatore. In effetti, se ci pensate, la musica e la religione in particolare, non solo nel caso nostro, ma riguarda la storia del mondo, la religione cattolica hanno dei punti di contatto enormi, e io sin da quando andavo da bambino in chiesa ho sempre pensato che senza i canti in chiesa, nel mio caso erano ormai quelli moderni, ma insomma ai tempi, quelli del canto gregoriano, che poi è il primo esempio di musica scritta che abbiamo, per cui è un episodio fondamentale, senza quei canti non ci sarebbero gli episodi di trance che avvengono in tutte le religioni. Io sono stato una volta sul Monte Athos, dove la musica, pensate che è vietata in realtà, la musica strumentale, perché la musica strumentale, secondo i frati del Monte Athos, che sono greci ortodossi, va a toccare delle zone del corpo e non del cervello e dell'anima, per cui si rischia di ballare e di indulgere in tentazione, ma in realtà cantano tanto, e cantano, la messa è totalmente cantata, sono solamente voci, e vi assicuro che io non sono andato là con lo spirito del credente, ma solamente per interesse personale e anche musicale. e si cade in trance, nel senso che la musica ha questo enorme potere, e soprattutto i modi che utilizzano loro, ha questo enorme potere di farti, di portarti in uno stato che in alcuni casi può essere di beatitudine, in altri invece probabilmente dell'esatto contrario. Professoressa Lopez, voi che avete studiato il viaggio delle note, ha una spiegazione scientifica su quello che ha già appena raccontato Stefano? Intanto tutto quello che voi dite ovviamente avviene nei nostri centri cognitivi, cioè dopo che questo stimolo molto complesso è stato già analizzato dai centri periferici che hanno inondato i nostri sensi, ovviamente tutti insieme, e poi a un certo punto c'è l'elaborazione, per cui io dico sempre che la musica è uno stimolo multimodale, no? Perché attiva non solo ovviamente il senso dell'udito, ma tutto, in fondo anche il senso motorio, il senso tattile, attiva moltissimo, attiva tanto della memoria, e infatti nelle varie associazioni che succedono, i centri della memoria vanno nella nostra autobiografia, e questo è un po' il leitmotiv che voi tutti state anche citando, no? E cioè ognuno di noi ha una sua storia anche musicale, ha una sua storia in cui è stato immerso, e a questa storia vengono agganciate memorie autobiografiche, memorie ovviamente musicali, quindi questo è una cosa che riguarda poi ciò che è stato, ma mentre ascoltiamo musica, mentre facciamo musica, si stanno già attivando delle nuove memorie che diventeranno il nostro nuovo patrimonio, e se non coltiveremo queste nuove tracce le perderemo poi, no? Perché chiaramente il nostro cervello funziona anche lui in economia e cercherà di risparmiare su alcune cose, quindi sarebbe appunto anche là, è proprio l'apprendimento avviene anche per questa continua esposizione a questi stimoli, ed un'esposizione appropriata ovviamente seleziona meglio gli stimoli che noi vogliamo avere, e in qualunque cultura questa cosa rimane. Infatti mi stupiva un po' quello che ha detto prima il dottor Aquilar quando diceva c'è una distinzione tra chi fa musica e chi riceve musica, in un certo senso è una distinzione molto occidentale questa, perché in realtà negli altri popoli non si stupiscono che poi uno non faccia musica, no? Ma come suoni, ovvio che suoni, ma come canti, no? Questo viene citato molto bene nel libro di Daniel Levitin, Fatti di musica, no? In cui lui dice che proprio parlando anche con le altre culture, insomma, si ha questa impressione che noi forse abbiamo troppo diviso invece questi ambiti, chi fa musica e chi riceve, dovrebbero, insomma, siamo tutti la stessa persona, ognuno di noi può farla. Insomma, siamo tutti un po' Stefano Bollani? Beh, questo mi piacerebbe. Non proprio, io vorrei tanto, ma non proprio. Io credo che poi ci sono appunto persone che possono appunto portarci in questo mondo e ci devono portare in questo mondo, ma poi ognuno di noi ne può fare parte, è ovvio che i livelli sono diversi, è ovvio che le professionalità sono diverse, però questo non toglie nulla al piacere, come se io volessi dire che tutti noi ci sono gli scrittori e poi noi non possiamo apprezzare quel modo di scrivere, no? Per esempio, quindi diciamo che queste cose vanno un po' condivise in senso più ampio, non siamo tutti scrittori, non siamo tutti professionisti musicisti, questo è ovvio, però il fare musica deve essere anche accettabile, come dire, senza questo timore reverenziale di entrare in un settore che è solo di alcuni, no? Questa è una cosa che purtroppo a volte allontana invece dalla pratica musicale. Essere e benessere. C'è Stefano Bollani con noi e ci sono anche la dottoressa Lopez e il dottor Aquilar. Una puntata tutta dedicata alla musica, al potere della musica, a quello che noi riconosciamo, a quello che ancora magari ci sfugge. Ma abbiamo anche Aldo che ci chiama da Hong Kong. Aldo, è vero? Buongiorno. Sì, cara, da tanto salve a tutti, a lei e a tutti i suoi ospiti. Ma mi ha chiamato perché c'è Stefano Bollani, dica la verità. Anche, ma soprattutto perché sono un affezionato ascoltatore di Radio 24, perché ho un computer a Milano che è collegato in radio con voi, io sento internet, via internet. Fantastico. Aldo. Sì, seguo voi, seguo la Zanzara, seguo parecchio, anche se l'Italia non mi manca più, però mi manca un po', diciamo, il contorno dell'Italia, ma l'Italia in se stessa non mi manca più, sto benissimo qua. Senta Aldo, e quanto alla musica, che musica sente? Ma io infatti amo la classica, sono più di primo pelo, amo la classica, quindi anche il pianoforte, l'oboe particolarmente, e mi piace anche moltissimo la musica, diciamo, moderna ma un po' tranquilla, che mi scarica i nervi. Come? E ho lasciato detto che il giorno che comincerò, cioè che purtroppo andrò dall'altra parte, voglio sentire l'Ave Maria di Schubert. Mi devono mettere in cuffia e sono sicuro che me ne andrò tranquillamente. Aldo, speriamo. Insomma, non, insomma ci vuole ancora molto tempo, però, nel frattempo. Ma io me lo auguro. Ecco, va bene. Però io ho imparato per un'attività che ho fatto prima, che ho esercitato prima, dove rischiavo veramente la pelle, diciamo, a essere pronto a qualsiasi cosa. Quindi nervi ce li ho tranquilli, non ho problemi da quel lato. Stefano, quindi mi preparo qualsiasi evenienza. Va bene, Stefano, un commento sui gusti musicali del nostro ascoltatore che ci chiama da Hong Kong. Ah no, di gustibus non disputando mestre. Sì, ma lui ci ha detto non sono più di primo pelo, quindi sento la classica. È un modo, insomma, si sente spesso questo, no? Ma sì, poi sai, bisogna sempre vedere, per quello che mi riguarda, veramente non è per spaccare il pelo in quattro, ma musica classica vuol dire tutto e nulla, perché è un termine che noi abbiamo inventato per definire una cosa che probabilmente invece per il nostro ascoltatore vuol dire musica sinfonica o musica da camera o musica dell'Ottocento, musica del primo Novecento. Ci siamo un po' inventati musica classica e musica colta per distinguerli da tutto il resto, col rischio che tutto il resto passi per musica incolta. Senti, Stefano, io ho molti ascoltatori che mi scrivono messaggi e vogliono avere da te dei suggerimenti da dare ai loro bambini. Bisogna farli studiare. Io leggevo anche molte tue interviste in cui ami, no, dare consigli piuttosto che lamentarsi che la musica non viene insegnata nelle scuole. Insomma, cerchiamo di fare qualcosa anche noi. Bene iniziare presto, se il bambino vuole smettere lo lasciamo smettere, o invece bisogna in qualche modo aiutarlo a resistere, continuare, quale strumento musicale iniziare per prima. Vogliamo, dato che tu sei altre papà e so che tu vivi con un ex batterista, vero? Tuo figlio? Tuo figlio è già un ex batterista, ecco. Purtroppo ha avuto una grande passione per la batteria e poi ha preso, da quando è andato a lezione, ha iniziato verso i 4-5 anni ad andare a lezione e dopo 5 lezioni ha detto adesso ho capito come si suona e smetto. Non è una grande esperienza da raccontare, in effetti, però in generale i bambini oggi in qualsiasi città d'Italia e ancora di più in provincia hanno di solito a disposizione dei corsi di propedeutica, che siano comunali oppure che siano scuole private, sono di propedeutica dove vengono messi tutti insieme, proprio come quando vanno all'asilo o quando vanno al corso di danza, quindi non vengono subito isolati come accade spesso nelle lezioni individuali, nelle lezioni di strumento come le facciamo noi all'occidentale, sì. Il bambino subito viene portato a un dialogo diretto con l'insegnante, che è molto pericoloso, nel senso che se trovi l'insegnante che non ti convince, non ti piace, magari smetti di suonare la batteria o quello che è, o lo strumento che stavi suonando, mentre invece i corsi di propedeutica spesso sono bambini tutti insieme e poi lentamente, con calma, 2-3 anni si capisce se qualcuno di loro vuole suonare uno strumento oppure se semplicemente, come sarebbe bello, si tratta di acquisire una conoscenza musicale di base per formare delle persone che della musica possono gioire senza bisogno di diventare professionisti. Professoressa Lopez, si dice che la musica aiuti a sviluppare alcune competenze specifiche, ad esempio migliori l'attenzione, l'apprendimento, la memoria, sino a dire che lo studio della musica in particolare potenzi l'intelligenza. Ma quanto c'è di vero? La musica può aiutare lo sviluppo dell'intelligenza, in particolare può migliorare le capacità di apprendimento dei bambini e di chi bambino non è più, naturalmente? Dunque, ci sono molte ricerche che ci parlano di questi risultati, per esempio ricerche che dicono che si aumentano le capacità visuospaziali, le abilità della memoria ovviamente, le abilità fonologiche e linguistiche, addirittura con degli effetti sui disturbi della lettura e alcuni punteggi dei test di intelligenza. Tutti questi sono pezzi di studi e dobbiamo un po' chiederci anche che cos'è poi l'intelligenza, è ognuna di queste cose oppure è un insieme di tutte queste cose, e qualche volta rischiamo di perdere sui dettagli, mentre invece altri studi ci parlano invece della figura un po' più generale e quindi per esempio ci dicono che non è tanto il singolo test che importa, quanto nei musicisti, in coloro che hanno fatto musica o che stanno studiando musica, aumenta un po' quella pianificazione, quella capacità di pianificare, programmare, seguire un progetto, portarlo al compimento, monitorare la propria performance, adattare il prossimo progetto secondo questo monitoraggio, quindi tutta una serie di funzioni evolute che vengono chiamate funzioni funzioni esecutive, che di fatto ci dicono come noi usiamo l'intelligenza. Non è tanto aumentare un punteggio, perché sappiamo bene che non è così che si misura in totale tutta l'intelligenza, quello è solo una delle misure, ma quello che noi davvero poi diventiamo come esseri è quest'altra parte, cioè come utilizziamo tutte queste abilità insieme. E credo che questo sia davvero un vero vantaggio della musica, perché per come è fatta la musica, a proposito di quello che diceva anche Stefano Bollani, no? Farla insieme, essere all'interno di un gruppo in cui ognuna delle mie azioni influenza tutto il resto, no? Quindi io devo seguire delle regole, seguire anche però degli istinti e stare molto attento a quello che viene fatto intorno a me, ascoltare la mia propria performance e adattarla. Tutte queste sono funzioni essenziali, se ci pensiamo, nella vita di tutti i giorni, da appunto condurre un'intervista, no? A partecipare ad un dibattito, ad una riunione, a essere consci all'interno di un progetto del proprio ruolo. Quindi voglio dire, la musica in questo senso davvero diventa funzione vitale. E dottor Aquilar, tra le tante funzioni della musica, antidepressiva, energizzante, rasserenante, umoristica, lirica, insomma discuteremo anche con la dottoressa Lopez e Stefano Bollani, c'è sicuramente quella che consente di comprendere meglio il significato delle emozioni complesse. La musica, non a caso, ad esempio, le persone quando sono innamorate, non solo, ma si regalano un CD, no? In cui si mettono magari in evidenza i propri sentimenti uno dopo l'altro. Certo, perché è anche un modo di comunicare il sublime, quindi di comunicare delle emozioni che sono troppo alte per essere compresse nelle parole. È come dire l'altro lato, l'altra faccia della poesia. In questo senso, se noi utilizziamo la musica, abbiamo il vantaggio che la musica è comunicazione. E c'era infatti un passaggio di quello che diceva prima Stefano Bollani che avrei voluto riprendere, perché lui diceva: io fin da bambino volevo stare su un palco, fin da bambino volevo attirare l'attenzione. Questo è un esempio di quello che possiamo chiamare narcisismo fisiologico e al servizio degli altri, perché poi grazie a questa spinta narcisistica di volersi autoaffermare, io utilizzo uno strumento comunicativo ed entro in relazione collaborativa e democratica con gli altri, che fa un po' da contraltare saggio al narcisismo patologico di cui purtroppo le cronache dei giornali sono piene. Stefano, adesso tocca a te. Sì. Questo profilo del dottor Aquilar. Sono stato messo in contraltare con narcisismo patologico, quindi sono già contento di oggi e quindi ringrazio davvero il dottor Aquilar. Però stavo pensando che in effetti, mettendo insieme i due discorsi che stavate facendo, è bello che la musica serva appunto a capire il proprio ruolo, come diceva la dottoressa Lopez. In effetti la musica, quando funziona, è una società ideale. Sia l'orchestra sinfonica, come sappiamo, quando non diventa un dramma totale come nel film di Fellini, che invece ne è la versione violenta di quello che può succedere in un'orchestra, il film Prova d'orchestra, sia nella versione del jazz e delle altre musiche, perché quando funziona è un'incredibile mistura, come non ce n'è forse se non nei migliori assembramenti umani, di esperienza condivisa, perché siamo tutti insieme a fare musica, a fare arte, ma non importa che sia arte, siamo tutti insieme a produrre un suono, a comunicare con l'esterno e fra di noi, e l'ego. Perché in effetti l'ego viene assolutamente gratificato dall'esperienza musicale, perché tu sei parte di questa cosa. Poi addirittura in molte musiche, sia nella musica classica che nel jazz, hai un momento in cui hai il tuo assolo, o addirittura la possibilità di improvvisare il tuo assolo, ma gli altri sono lì con te, suonano, ti sostengono, ascoltano la tua performance e ti fanno andare anche in un'altra direzione, se tu hai l'intelligenza di tenere le orecchie aperte e di non parlarti e sbrodolarti addosso. Essere e benessere. La musica è la tua propria esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza. Se non la vivi, non verrà mai fuori dal tuo strumento. Charlie Parker. Eccoci di nuovo insieme e in linea con noi abbiamo Pietro da Milano. Buongiorno Pietro, benvenuto. Buongiorno, finalmente, è un po' che aspetto. Comunque io volevo parlare riguardo alla musica in generale, come i discorsi che state facendo sono bellissimi, però bisogna valutare il fatto della che tipo di musica si ascolta, perché io sono musicista ormai da tanti anni, adesso diciamo che non sto suonando più, ma ho sempre studiato la batteria, ho anche due figli, uno di un anno e mezzo e uno di 4 anni che suonano anche loro. Anche quello di un anno e mezzo suona, perché quando era in pancia io gli davo da ascoltare cose a mia moglie e via dicendo. Però vede, la musica in generale, bisogna vedere se quello che noi ascoltiamo fa bene o male, perché molte volte io mi sono trovato in una situazione che sono dovuto andare da un dottore e questo dottore mi disse: guardi che la musica che ascolta che lo fa diventare teso e arrabbiato. E quindi Pietro, la musica, Stefano, ma Pietro fa una distinzione, io ho letto una distinzione, c'è la musica bella e quella brutta, adesso Pietro dice c'è una distinzione tra la musica buona e cattiva. Tu vorrei un tuo parere riguardo, perché no, mi sembra, io non lo posso dare finché non lo posso dare finché Pietro non ci dice qual era la musica che il dottore gli ha sconsigliato, che sono curiosissimo. Dai Pietro. Beh, la musica che mi ha sconsigliato è musica rock, heavy metal, quella roba lì che spesso è musica satanica. Satanica. Perché sono parole scritte in un certo contesto, quando uno fa uso di stupefacenti, che tipo di persona le sta scrivendo questa musica, in che ambito, capisci? Allora lì si entra in un ambiente dove tu sei ipnotizzato dalla musica e rischi di fare male a te stesso e anche ad altri, perché allora, nel tempo succedono queste cose. Stefano, dottor Aquila e dottoressa Lopez, vi lascio la palla. Parto io perché dopo tanto so che avranno da dire qualcosa i dottori. Dico una cosa, la prima cosa che mi viene in mente, e cioè che esiste una netta distinzione fra i motivi per cui uno ha scritto il pezzo, le intenzioni che ha e quello che poi ci arriva, perché non è che noi raccogliamo davvero le intenzioni di John Lennon o dei Beach Boys o di Ozzy Osbourne, ma credo che ognuno viva la musica come esperienza personale che le dia, ahimè, a volte il significato che preferisce, per cui dipende solamente dalla persona che riceve la musica il prenderla in maniera negativa o positiva. Questa è la prima cosa che mi viene da dire. Sì, prima ne hai un'altra o passo la palla alla dottoressa Lopez? Dottoressa Lopez. Ma che bella questa palla che mi ha passato. Allora, intanto io ritengo che questa distinzione appunto sia relativamente fittizia, cioè è vero che ci sono musiche in cui le parole hanno dei toni forti, eccetera, però non è per quello che la gente le ascolta e sicuramente non è per quello che la gente poi ne viene influenzata. Quindi, come diceva giustamente Stefano Bollani, dipende molto dalla posizione anche mentale che uno ha mentre ascolta questa musica. Una volta può fare questa impressione e magari la volta successiva non tanto. L'ascoltatore di prima, che è stato tanto colpito dalle parole, uno su mille ce la fa, e che è stato ispirato da queste parole, probabilmente ha ricevuto da quella musica cose che altri magari ascoltandolo non hanno attribuito a questa canzone, per dire, no? Per cui è chiaro che ognuno di noi ci mette qualcosa. Poi è vero che ci sono delle musiche che intenzionalmente, no, vogliono trasportarci in un determinato posto, e quindi per esempio ci immaginiamo le colonne sonore, no, in cui abbiamo una forte connessione fra immagini evocative e musiche, oppure ci sono delle connessioni con le nostre biografie che quindi rafforzano questa impressione. Io non credo che possiamo davvero definire la cattiveria e la bontà. Certo. La musica rock per esempio ha delle grandi potenzialità, perché ha un ritmo, no, che è davvero un ritmo che ci riporta alle nostre più intime, diciamo, origini anche dei nostri oscillatori interni, dei nostri ritmi interni, quindi non vedo perché demonizzare. Assolutamente. Musica. Dottor Aquila, lei immagino che sia d'accordo. Sono sicuramente d'accordo. Però lei la è sempre un po', aggiunge sempre un po' una nota da bastian contrari, come si dice, no, in Piemonte. No, vorrei solo aggiungere che la musica è uno strumento potente, come tale può far bene e può far male, come un bisturi, può salvare la vita e può accoltellare. Quando le nostre emozioni possono essere pompate con la musica e quindi arrivare ad un esagerato struggimento fino alla disperazione, ad una esagerata energia o ad una esagerata rabbia, e in questo senso il nostro ascoltatore Pietro da Milano ha ragione, certamente può far male. Così come possono far male anche le parole unite alla musica della questione di uno su mille ce la fa. Io consiglierei all'ascoltatore Angelo da Brescia di inventarsi un'altra canzoncina che fa ce la possono fare anche gli altri 999. Poi chiediamo al maestro Bollani di farci la melodia. Stefano, così svoltiamo, che dici? Senti. Fare un po' la melodia di questo brano. Mi è venuto in mente mentre ascoltavo gli altri interventi che ho appena visto il bellissimo film di Paolo Sorrentino, sì. This Must Be the Place, sì. In cui appunto Sean Penn recita da par suo e forse anche meglio, e fa proprio il ruolo di questa rockstar che vive di un enorme senso di colpa, un ex rockstar, perché due ragazzi si sono suicidati ascoltando le sue canzoni, dando retta alle sue canzoni che erano appunto depressive, e lui ha smesso di cantare e tutti i giorni va sulla tomba, sì, a salutarli, e viene scacciato addirittura dalla famiglia dei due ragazzi perché viene ritenuto responsabile. Ecco, non voglio, so che sto aprendo un argomento enorme, però in effetti bisogna anche fare attenzione, secondo me, a non demonizzare troppo. Ecco. In realtà le persone che hanno scritto un tal testo, una tale canzone, perché non è nelle loro intenzioni. Certo, deve arrivare da noi. Radio 24. La passione si sente. Essere e benessere.